mare d'agosto. Bagnanti, bagnanti bastardi, mi tirano la sabbia, mi buttano nell'acqua, io schiumo di rabbia, bagnanti bastardi. Odio il mare d'agosto, odio il mare d'agosto, perché quest'anno io sono stato al mare, non credo di volerci tornare. Come sardine in 3 metri di costa orientale, in spiaggia tante persone, ma solo una gran convinzione di essere solo un puntino in mezzo a un grande casino. Bagnanti bastardi! Cambio posizione, gioco col pallone, mi rubano il pallone, bagnanti bastardi! Sento la mamma che sgrida, il bambino che piange in continuo, bagnanti bastardi! Ormai sono fuso, mi prendo una pausa e ritorno in paese, bagnanti bastardi! Odio il mare d'agosto, odio il mare d'agosto, perché quest'anno io sono stato al mare, non credo di volerci tornare, stipati come sardine in 3 metri di costa orientale, in spiaggia tante persone, ma solo una gran convinzione bastardi!